Pisani. Colleghi, se siete d'accordo, io e il Garavelli continueremmo a far sfogare un po' gli amici d'accordo. Qua sotto. Vi va? D'accordo. Allora, per gli amici qua sotto, questa ve la dedica Garavelli. Allora, vediamo di farci sentire o no? Se gentilmente potete cantare, ci fate un favore, eh? I don't. Com'è? Com'è? Chiunque non fosse mai stato nei nostri studi, che non è che abbiamo un auditorium con dentro 300 persone, stiamo trasmettendo con la finestra aperta dal primo piano di affacciata in via Vittor Pisani, e la gente che è venuta a salutarci sta partecipando. Com'è? Permettimi di riportare un meraviglioso striscione che è stato appena aperto, sì? It's only Rock FM but it's all my life. Ce n'erano un po' di striscioni. Ne vedi altri, Max? In questo momento c'è così tanta gente che non riusciamo a vedere gli striscioni. Però io, se non ricordo male, ho intravisto un Garavelli santo subito. Santo subito! Santo subito! Santo subito! Santo subito! Santo subito! Vabbè, Garavelli, che ci vuoi fare? Tocca andare a Roma, e vabbè, tanto insomma. Ti tocca comprare quel cappello lì, Marco. Beh, prenderò delle nuove guardie svizzere. Allora. Come vi sembra, cari colleghi, da quella parte? Avete fatto l'estrazione? È vero, l'estrazione, ma l'abbiamo fatta? Non la stiamo svelando ancora. Ok. Però vedo che c'è una canzone che secondo me continuerà a far saltare la gente ci sta. Che è qua sopra. Sai De Ryu qual è la classica domanda? No, però aspetta, prima di lanciare la domanda giusta di rito, sì, è importante dire che noi non ci stiamo rivolgendo solamente ai tanti amici e amiche che sono qua sotto. Anche se siete lontani e state ascoltando la radio, potete partecipare ugualmente con il cuore. Esatto. Idealmente cantate alla festa con noi, cantate e urlate. È una cosa così si può fare solo con uno staff di lavoro di questo tipo, credo. Già. Immagino. Già. La domanda, amici di Vittor Pisani e anche di tutti gli altri che stanno ascoltando, è questa qua. Ehi, oh! Cazzo, la sanno. Abbiamo un pubblico preparato, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Neanche a Sarabanda sono così preparato. La indovino con una. Occhio, Piazza della Repubblica che arriva. Chiamiamo ufficialmente forza il Matthews. Matthews in studio. A tempo, ragazzi, a tempo. Aggiunge anche il Matthews, Chuck Bird. Nell'ultima diretta, sono le 16 e 13 minuti primi. Emittente radiofonica Rock FM, o meglio il gruppo di lavoro dell'emittente radiofonica Rock FM. Potremmo già cominciare a chiamarla la Rock Family e punto e basta. E allora! Benvenuta Rock Family! E domani c'è una festa della Rock Family. Alla Flora. Diciamolo, sentite. Rock Family. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Ho come l'impressione che la comunicazione sia precisa e si intuisca. Sì, sì, Giulio, sì. Cosa ne pensi? Sono annichilito. Claudia? Non saprei cosa dirti, è bellissimo. Sono Max, bellissimi, sono. Cos'è che dicono? Non capisco. Non c'è manovrazione. Aspetta. Un certo Ugo? Un certo Ugo. Certo, ce l'hanno con un certo Ugo. Vabbè, ok. Maurizio, che impressione hai? Mi batte forte il cuore, cara. Edo. Ragazzi, mi suda il culo, cioè veramente. Eccolo. Marco, possiamo essere allo stadio, sembra che sia allo stadio. Dai, ma sono bellissimi, sono bellissimi. Gravelli, dovresti saltare però. È un minimo, Gravelli, eh. Allora, belli comodi dall'altra scusate, parte. Fatemi chiedere anche a Chuck Bird come gli sembra sta roba. Allora, passerottine là fuori. È uno spettacolo indimenticabile. E che non ci dimenticherò. Max, com'è? Ma col fischio tengono a precisare. Va bene, allora dovremmo, cari colleghi, decidere una sorta di ordine per chiudere, okay, uno alla volta. C'è un'estrazione, mandiamo in onda un brano e ci lavoriamo. Allora, facciamo che sia ancora festa. Sing a song. Per voi là fuori. C'è il testo scritto sulla metropolitana. È molto semplice. È un rock blues. Chiamano It's Rolling only Stone. Rock FM, but we like it. In my heart, I spill it all over the stage. But it's satisfied. Fabio? But it's not a bite. What the boy is playing. Ain't it strange? If I could win, if I could sing a love song. Com'è là sotto, si balla o no? Would it be enough for your cheap heart? If I could. Rock and roll, but I like it. Cantavano i Rolling Stone e canta questa emittente radiofonica alle 16:20 primi. ancora lo staff al completo, rinchiuso, blindato nella diretta, nella diretta di lusso di Rock FM. Possiamo chiamarla diretta di lusso questa? Ancora per un'ora e mezza direi. Ok. È un po' di gente là fuori. Molta gente. Tantissima, sta aumentando. Allora, Polizia ha deciso di frustarci. Direi che la domanda più frequente di questi giorni è stata: quale sarà l'ultima canzone trasmessa? Abbiamo già spiegato che ognuno di noi nasce a forse Ariel, è bene che tu faccia questa spiegazione. Di spiegare tutto. Allora, okay. Avremmo deciso di singolarmente presentare un ultimo brano al pubblico, esatto, in modo che non ci sia, diciamo, un unico brano, ma sia per ognuno di noi un singolo brano. E dopodiché la famiglia. Avremo una sorpresa finale per chiudere i battenti. Sarà una sorta di, che ne so. C'è una sorpresa, allora, sorpresa. Visto che è scritto sul suo blog. Aspetta, strano. Cosa è scritto sul suo blog? In questi 18 anni abbiamo cercato di avere un rapporto, anzi, credo siamo riusciti ad avere un rapporto sempre aperto con le persone, quindi sappiate anche che l'ordine con il quale ci presenteremo ai microfoni ognuno di noi con il nostro brano è stato estratto, è frutto di un'estrazione, perché ci sembrava giusto così. Allora, posso chiedervi gentilmente come si fa allo stadio? Io non sono mai andato allo stadio, però se non ricordo male si fa esatto. Se mi aprite la finestra io vi leggo l'elenco di persone. Questo è l'ordine. Aiuta la piazza, c'è. Amici, siete ancora lì? Ok, allora pronti all'ovazione da stadio quando verrà chiamato il nome e la formazione delle ultime canzoni. La formazione di chiusura di Rock FM per quest'oggi prevede al primo posto Max De Rio, al secondo posto vi saluterà l'Ariele, dopodiché vi saluterà Mox Cristadoro. Seguirà Luca Matthews Chuck Bird, Maurizio Faulisi, Giulio Caperdoni, DJ Edo, Marco Garavelli. Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri Garavelli, tanti auguri a te. Ce ne mancano ancora due. Attenzione, a seguire programmerà il suo ultimo brano Fabio Treves, il Puma di Lambrate. Due Fabioni. E l'ultima speaker a programmare un brano su questa emittente radiofonica sarà Claudia. Dovrei fare lo speaker. Guarda, tu non sei mai andato allo stadio, ma fidati che questa tua attitudine tornerebbe utile. Tornerebbe utile. In curva, secondo me. No, un nuovo mestiere. Ultimamente succede che prima delle partite c'è qualcuno che così aizza la folla, tipo dice le formazioni direttamente. Tra l'altro, scusate, ho al telefono Treves che mi sta telefonando anziché essere qui. No, Fabio, perdonami. Ti va di salire con noi o vuoi stare giù? No, giù. Dov'è Treves? È giù. Parla, scusa, sei in interfono. Pronto. Oh, sei in interfono. Io voglio avere il permesso di suonare questa sera con la maglia della Rock FM All Star. Va bene, puoi farlo, Fabione. Ma questo implica il fatto che non metterai l'ultimo brano? Lo metti a telefono, ti telefoniamo. Sì, dai, ci tengo, ma qualche volta citatemi come se fossi lì con voi. Fabione, posso dirti una cosa? Ma vaffanculo, va. Ci sentiamo tra poco. Scusa. A dopo, Fabione. No, beh, dai, è giustificato. Così, stasera suona Paderno Dugnano, quindi è giusto. Lo sentiremo al telefono e poi. A soundcheck. Sai quelle cose lì un po'. Va bene, per scaldare l'atmosfera, nel caso ce ne fosse di bisogno. Diciamo che tutto ciò partirà. Abbiamo indicato un 5 meno un quarto, potrebbe essere. A me va bene, Garavelli. 5 meno un quarto giudicato? Alla bene, signora De Rio va bene? Dice è arrivata, finalmente è arrivata anche mia madre. No, grande. Allora, io avrei una canzone degli AC/DC che ci ricordano come per... Se in realtà vuoi arrivare fino in cima, è la strada... L'abbiamo cantata anche ieri sera. È lunghissima, esatto, questa. È lunga. Con Nicky. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Questo è per tutti voi là fuori. It's a long way to the top if you wanna rock FM. FM.